Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, sapete chi è il secondo produttore farmaceutico in Europa e anche uno dei primi al mondo? È l'Italia. Il dato sorprende un po' perché non abbiamo grandissime multinazionali farmaceutiche e tutti noi quando prendiamo delle medicine pensiamo a sigle tipo Bayer, tipo Roche, Eli Lilly, GlaxoSmithKline. Invece il secondo produttore europeo è l'Italia, con 30 miliardi di valore della produzione, sono gli ultimi dati di Farmindustria, rispetto ai 32 della Germania, ai 24 della Francia e ai 18 del Regno Unito. Come si spiega tutto ciò? Si spiega perché noi abbiamo una tale eccellenza manifatturiera che succede che molte di queste multinazionali mettano stabilimenti produttivi qui. Quindi i colossi tedeschi, i colossi francesi, i colossi svizzeri vengono a produrre in Italia e la nostra eccellenza manifatturiera è forse superiore alla capacità di generare nuovi brevetti, che invece sono pochi. Infatti, dei 30 miliardi di valore della produzione farmaceutica in Italia, il 60% appartiene a multinazionali che hanno i loro stabilimenti qui e l'80% è destinato alla esportazione. Di questi argomenti e di altri argomenti ancora della manifattura farmaceutica ne parliamo oggi con Giampiero De Mestria. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lui è un esperto di industria del farma e poi guida anche un'azienda di distribuzione farmaceutica che si muove secondo logiche avanzate di utilizzo dei dati e che si chiama PharmaIdea. Parleremo anche un po' di PharmaIdea, ma parliamo soprattutto di manifattura del farma. Lei come commenta questi dati? Beh, sicuramente, come ha detto lei, l'eccellenza manifatturiera italiana si è anche sviluppata nel corso degli anni, a partire sin dagli anni 70, anche nella produzione farmaceutica. Siamo anche dei grossi esportatori di tecnologie per la produzione, e questo basato sul fatto che abbiamo da sempre fatto investimenti più che sulla ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, soprattutto sulle tecniche produttive per la realizzazione di farmaci che sono stati sviluppati da aziende al di fuori del territorio nazionale. Bene, bene. Ma secondo lei questa tendenza dei grandi gruppi a dare in outsourcing la produzione continuerà? Ma assolutamente sì, presumo che questo trend, che è cominciato già appunto da un po' di anni, continuerà, anche perché le aziende farmaceutiche si stanno piuttosto indirizzando verso lo sviluppo di nuovi farmaci, pensiamo soltanto al biologico e al biotech, mentre invece la produzione dei farmaci di provenienza prevalentemente chimica viene sempre di più visto come un fattore non più chiave di successo e quindi tendenzialmente oggetto di esternalizzazione verso operatori come appunto anche il nostro paese, che invece in questo ambito hanno sviluppato gli investimenti, stabilendo quindi una capacità produttiva sufficiente a soddisfare non solo il mercato domestico ma la domanda di un mercato più ampio e quindi quello globale. Ma secondo lei questa ipotesi di fare il Centro Europeo del Farmaco a Milano rispetto a una realtà produttiva come questa, che anche delle chance per svilupparsi e per crescere, come potrebbe incidere, come potrebbe aiutarla? Bah, sicuramente portare l'autorità del farmaco europea da Londra, dove attualmente è posizionata a seguito della Brexit, all'interno diciamo dell'Italia, sarebbe un'ottima chance, perché il nostro paese veda riconosciuta questa sua leadership nel mercato produttivo del farmaco, e questo potrebbe forse portare ad ulteriori investimenti anche provenienti dall'estero per incrementare rafforzare il ruolo di leadership che l'Italia ha nel settore manifatturiero. Quindi sicuramente un'opportunità da perseguire e da sfruttare al meglio nel corso della negoziazione per la Brexit. Benissimo, continuiamo a parlare di industria farmaceutica dei primati italiani dopo l'avviso sul traffico e la pubblicità. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Oggi parliamo di industria farmaceutica. Nella prima parte della trasmissione abbiamo ricordato l'incredibile primato che ha l'Italia, che è il secondo paese manifatturiero farmaceutico in Europa. Pensate, 30 miliardi di valore della produzione, che è poco meno del valore della produzione della Germania, che è di 32. Ne parlavamo con un esperto che è Gian Piero De Mestria. Senta, però 30 miliardi, siamo i secondi dopo la Germania, però alla fine la cifra è poca cosa se la paragoniamo al fatturato delle più grandi multinazionali farmaceutiche, che hanno anche fatturati di 50, 60, 40 miliardi. Beh, deve tenere conto che innanzitutto stiamo parlando del valore della produzione del farmaco, e quindi il farmaco prodotto da un'azienda locale italiana viene poi venduto e rivenduto sui mercati di sbocco a valori decisamente più alti, determinati appunto dai margini delle aziende farmaceutiche in termini di commercializzazione. Pur vero che anche se il valore in senso assoluto non è fra i più elevati in termini di contribuzione, per esempio, al nostro PIL, è sicuramente uno dei pochi settori che continua a registrare una costante crescita nel tempo, non soltanto in termini di valore della produzione, ma anche e soprattutto nel corso dell'ultimo anno in termini di occupati nel settore. Sì, nell'ultimo anno i 64.000 addetti sono ulteriormente cresciuti. Adesso non ho sott'occhio il dato, ma comunque c'è un continuo assumere. Pensate che su 64.000 addetti del manifatturiero farmaceutico, ben 6.100 sono dedicati alla ricerca e sviluppo, e ogni anno in Italia viene fatto un investimento di 2,6 miliardi sulla ricerca e sviluppo. Da notare che, siccome ci sono pochi brevetti, la ricerca e sviluppo è più sulle tecniche produttive che non sui brevetti per nuovi farmaci. Dico bene, De Mestria? Assolutamente sì, si tratta appunto di uno dei settori che ha un rapporto fra occupati totali ed occupati ad elevata qualificazione, quali per esempio gli ingegneri, più elevati nel panorama industriale italiano, e questo tipo di know-how viene utilizzato per sviluppare nuove modalità produttive a tecnologia molto avanzata. È assolutamente corretto. Tant'è che il farmaceutico ha 220.000 euro di valore aggiunto per addetto rispetto ai circa 100.000 euro di valore aggiunto degli altri settori manifatturieri. Comunque noi siamo, a livello di aziende italiane, un paese di medie aziende farmaceutiche, ma questo non stupisce, perché ormai tutta l'Italia si regge sulle medie imprese, non sulle piccole, non sulle grandi, sulle medie, e le speranze che abbiamo di svilupparci risiedono nelle medie imprese. Ormai peraltro non ha più senso parlare di PMI, ma si parla di medie imprese, giusto perché i nostri ascoltatori se ne rendano conto. La prima casa farmaceutica made in Italy è la Menarini, con 3,4 miliardi di euro di fatturato; la seconda è la Chiesi, con 1,5 miliardi; la terza è la Bracco, con 1,36 miliardi; la quarta casa farmaceutica italiana è la Recordati, con 1,5 miliardi; poi al quinto posto troviamo la Alfa Sigma con 1 miliardo, al sesto l'Angelini con 850 milioni, al settimo la Zambon con 700 milioni. Lei come commenta questa situazione? tutti i gruppi che ha menzionato sono gruppi che hanno nel corso degli ultimi anni, e qualcuno anche a partire da più indietro nel tempo, sviluppato anche la loro presenza all'estero. È vero quindi, come dice lei, che la dimensione è una dimensione media, ma non possiamo sottacere un fenomeno di internazionalizzazione per rispondere alla sfida determinata dalla globalizzazione che le nostre aziende farmaceutiche stanno cogliendo, e quindi espandendo la loro produzione e le loro attività commerciali anche in paesi emergenti e in paesi in via di sviluppo, con risultati che le porteranno probabilmente a vedere la loro crescita dimensionale velocizzarsi nel corso del prossimo futuro. Senta, lei guida un'azienda che si chiama PharmaIdea e ha circa 150 milioni di euro di valore della produzione. Ci spiega esattamente voi che fate? Noi siamo un fornitore di servizi alle industrie farmaceutiche presenti sul mercato italiano ed essenzialmente forniamo delle attività commerciali nei confronti del canale farmacia, al quale offriamo attraverso un modello di vendita innovativo la possibilità di accedere ad un portafoglio prodotti di brand molto noti di grosse case farmaceutiche multinazionali ed italiane. Quindi voi avete grosse case farmaceutiche che vi affidano la distribuzione di alcuni loro prodotti? Corretto, la differenza che abbiamo fatto sul mercato nel quale ci siamo presentati nel 2000 come nuovo player innovativo è determinata da un modello commerciale multicanale che quindi si basa su un contatto con le farmacie nostre clienti attraverso tanto il canale tradizionale di una rete di vendita fisica e quindi con contatti frontali con i nostri clienti, quanto da due contact center telefonici dove operano degli operatori di vendita in modalità outbound, nonché ovviamente da una piattaforma web e da un portale d'accesso riservato ai farmacisti. Tutti questi canali lavorano insieme allo scopo di consentire al farmacista di accedere ad un set di brand molto noti e migliorare. Quali brand distribuite voi? Distribuiamo brand per conto di Roche, di Bayer, di UCB, di Merck. Prevalentemente farmaci da banco, quelli senza ricetta. Diciamo che il nostro portafoglio vede un mix di prodotti da banco e anche di prodotti, diciamo, da prescrizione o quantomeno sui quali il farmacista al momento della dispensazione può dare il suo consiglio qualificato al paziente. Ecco, voi avete questo algoritmo intelligente, quindi lavorate molto col software e con sistemi di analisi software che vi consentono anche di fare tutto quel fatturato senza neanche troppi dipendenti. Mi spiega bene come stanno le cose? Sì, assolutamente. Noi ovviamente raccogliamo sulla base delle nostre attività commerciali nei confronti dei clienti una serie di informazioni e il nostro software le rielabora e con un algoritmo definisce per ciascuna tipologia di cliente qual è il mix di canali, quindi frontale, visita di un venditore piuttosto che contatto telefonico, preferito dal nostro cliente, e quindi il nostro modo di lavorare sui dati serve per fornire ai nostri clienti il miglior canale di accesso nel momento più utile e più idoneo per il nostro cliente. E quindi potete fare sì che i prodotti che le farmacie acquistano vengano ritirati solo quando sono molto vicini alla scadenza, quindi ottimizzare la gestione del ciclo di vita dei prodotti e quindi anche la rotazione in farmacia, quindi evitare sprechi, ridurre i costi e favorire un po' i farmacisti. Assolutamente, il nostro obiettivo è quello di mettere in contatto aziende farmaceutiche e farmacisti ottimizzando da un lato le vendite per le aziende farmaceutiche e dall'altro l'assortimento delle farmacie e quindi la loro risposta in termini di servizio e di completezza di gamma nei confronti dei pazienti. Bene, bene. Ma non è che poi le farmacie italiane stanno un po' soffrendo o sbaglio? Sicuramente la riduzione nel corso del tempo della spesa pubblica a carico dello Stato per la gestione della salute dei cittadini ha influito anche sulle farmacie, che sono l'anello finale della distribuzione al consumatore. Quindi le farmacie hanno dovuto in qualche maniera ripensare il loro modello di business, cercando di trovare in prodotti a più alto valore aggiunto e nei servizi delle nuove fonti di ricavo e per costruire una migliore relazione con i loro però pazienti. senti, nel frattempo stanno soffrendo dal punto di vista dei ricavi della redditività. Assolutamente non vanno sì. benissimo, anche a causa dei generici che diminuiscono la loro la profittabilità del cliente finale. Assolutamente vero, il fenomeno dei generici ha consentito la riduzione della spesa a carico dello Stato, ma allo stesso tempo ha inciso su tutta la catena del valore in termini di riduzione dei margini e dei valori per ciascuno degli attori, in primis la farmacia. Senta, ma mi consenta di andare un po' fuori tema in finale di trasmissione. Io sono convinto che se prendo il generico di un farmaco sia la stessa identica cosa del farmaco brandizzato. Altri, nella cerchia dei miei amici conoscenti, dicono non è proprio lo stesso, potrebbe esserci un qualcosa in più. Com'è la cosa? Ce la spiega? La posso spiegare esattamente pensando a quello che dice la legge stessa. Un farmaco generico è un bioequivalente di un farmaco, diciamo, originale a suo tempo coperto da brevetto, con un più o meno 20% di biodisponibilità. Quindi significa che, siccome possono essere diversi anche gli eccipienti all'interno del farmaco, ci può essere in alcuni casi una risposta persino migliore rispetto a quella del farmaco originale, in alcuni casi ci può essere una risposta invece non allo stesso livello. Sono a tutti gli effetti bioequivalenti. Poi, come sempre succede, la cura della persona e ciascuno di noi come persona reagisce sia fisiologicamente in maniera diversa, e poi ci sono anche degli aspetti psicologici per cui un paziente abituato a consumare un farmaco di marca con la scatoletta che vede da tanti anni con lo stesso colore può avere degli effetti psicologici di minor compliance alla terapia nel caso invece veda un farmaco con una scatoletta diversa. Quindi possiamo continuare a comprare in farmacia generici senza preoccuparci. Possiamo continuare in farmacia ad esercitare la nostra scelta, fa scegliere di consumare ancora l'originetto, come si definisce tecnicamente, ovvero quello che era coperto da brevetto, il generico. Purtroppo dobbiamo chiudere. Ringrazio il dottor De Mestria, grazie. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Ringrazio chi ci ascolta, mi raccomando, sabato prossimo ore 14.